Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ah, ma sei tornato, amore. Pensavo che fossi ancora in viaggio. Di te non ci si può fidare, ma cosa credi, di prendermi in giro? Ti ho vista oggi. Mi tradisci alla luce del sole. Tutte palle il lavoro. Che cosa vuoi dimostrare? Che puoi avere tutti gli uomini che vuoi? Non ti basto io? Mi manca qualcosa? Eh? La tua violenza non ha giustificazioni. Sei patetico. Voglio farti vedere cos'è un vero uomo. Un giorno te la farò pagare per questo. Scompari dalla mia vita e non ti far rivedere mai più. Devo metterti in riga. Esci dalla mia casa, chiamo la sicurezza. Va bene, me ne vado. Sì, vattene. Una come te rimarrà da sola. Questo è il tuo destino. Trattenete le risa per lo sconcio che avete ascoltato. È qualcosa di molto serio. È il trapelare di barlumi di vita repressi dai media ufficiali, o perlomeno dal grande dibattito sull'evoluzione umanità, che riappaiono come funghi dopo un pomeriggio autunnale, quando appare uno spicchio di sole alle radici degli alberi a liminare delle strade. Questa è una webserie prodotta da Lore del Santo, che racconta la fantastica vita, come fosse una resumazione, di alcuni reflui della televisione che ormai non esiste più, o perlomeno è talmente minimale che non merita più nemmeno l'attenzione dei grandi osservatori. Questa mattina cercherò di analizzare alcuni di questi barlumi di umanità, perché hanno una loro ragione di esistenza, soprattutto sono interessanti dal punto di vista antropologico, in quanto resumazioni di modelli umani che sembravano scomparsi, o perlomeno che erano sempre più periferici. Achille Corea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Achille Corea, sceneggiatore, conduttore radiofonico e profondo analista e esegeta di questo tipo di post-produzione, come vogliamo chiamarla? È una post-televisione questa, o è l'avanguardia di un nuovo mezzo espressivo? I grandi soloni della televisione dicono che la televisione diventerà qualcosa che gli utenti si produrranno da solo, i contenuti fatti all'utente. Beh, Lori del Santo cos'è stata? Una antesignana di questo trend? Beh, diciamo che aprire con Lori del Santo è significativo, perché è vero, le web serie sono considerate da tutti come la televisione che verrà, la televisione dei giovani, questi giovani videomaker che riescono con pochi mezzi a fare delle sitcom, delle serie, diciamo, ispirate alla televisione, ma che fanno vedere in televisione quello che in televisione non c'è ancora. Lori del Santo fa un'operazione pazzesca, fa un tipo di televisione che in televisione non c'è, perché nessuno pensa di farla. È una serie con delle aspirazioni altissime, non è una soap opera, perché è girata a New York, a Londra, a Miami, a Roma, a Milano. È super patinata, quindi super patinata. Non è fatta a basso budget. No, ma è completamente slegata da qualsiasi esigenza produttiva, perché è girata da Lori del Santo, è scritta da Lori del Santo, il trucco è fatto da Lori del Santo, il cameraman è Lori del Santo e tutto il mondo è visto dalla prospettiva di Lori del Santo. Sono persone che vogliono solo fare i soldi, vogliono svoltare, vogliono sposarsi se sono uomini con una donna ricca, se sono donne con un uomo ricco, e vivere come The Lady, che è il nome della serie ed è la protagonista. Questa donna che è ricca, perché è ricca? Perché ha sposato bene, come dicono a Roma. Lei era poverissima, poi ha sposato uno che gli ha lasciato un'abnormità di denaro, come viene detto a un certo punto nella serie, e diventa il punto di riferimento per tutti questi personaggi che nella vita cosa vogliono fare? Diventare ricchi come The Lady. Infatti è vittima di cacciatori di dote, praticamente, di persone che gli concupiscono la segretaria per arrivare a lei. Sì, c'è tutto un, diciamo, un movimento di persone che vorrebbero conoscerla. Lei non interagisce quasi mai con gli altri. Perché ha molte, diciamo, segretarie, naturalmente. Perché ha una segretaria con cui parla al telefono, ha delle amiche che ogni tanto chiama per chiedere cose tipo: ma per te che cos'è l'amore? E loro ovviamente rispondono con delle perle di saggezza. E ha tutte queste persone che la evocano, non la vedono, perché lei è sempre in giro, è sempre dietro a queste modelle. Ci sono modelle di continuo, mediamente c'è una donna in costume da bagno ogni 20 fotogrammi, insomma difficilmente la gente sta vestita normalmente. Ecco, vediamo un altro assaggio per far capire a chi ascolta la radio che La media umana delle persone che interpretano questa serie sono uomini palestratissimi, gonfiatissimi, sembrano poi veramente al limite dello scoppio, e donne naturalmente ipersiliconate, iperlabiate, tutte con gonne cortissime, tacchi altissimi, levigate. Insomma, come nel più sublime sogno coatto, puoi immaginare un ragazzo o una ragazza di arrivare alle soglie più inarrivabili naturalmente del successo. È tanto che non ci vediamo. Ho tanta voglia di vederti. Non mi chiami mai. Hai ragione. Io ti amo. Dovresti rispettare il mio sentimento. Sei molto sexy. Voglio tenerti nella mia vita. Devo andare ad un appuntamento di lavoro, mi accompagni? Con piacere. Antonio, aspettatemi dall'altra parte del palazzo. Va bene, signora. Naturalmente automobili, motociclette, caschi, tutto perfetto, girato, perché è girato poi a Milano, dovrebbe sembrare, non so se Miami, ma in parte mi sembra girato a Milano. È girato in parte a Milano e poi ci sono una serie di telefonate, le telefonate sono proprio il motore di questa serie, perché lei continuamente, the lady o le altre persone si telefonano per chiedere come va, oppure informarsi appunto sull'amore, sulla vita e sulla metafisica, e tutte queste persone sono sparpagliate in giro per il mondo, appunto diciamo a Londra, Miami. Ecco, dovevo dire la resumazione del protagonista. L'uomo che avete sentito è Costantino Vitaliano, unica persona veramente famosa, mentre gli altri sono, diciamo, una forma di neorealismo 2.0, sono attori spesso diciamo sconosciuti oppure noti, diciamo, solo a chi veramente frequenta. Struscio la discoteca milanese. Esattamente. Ecco. Sono tutti, come tu dicevi prima, bellissimi e palestratissimi, tranne due personaggi che sono i filippini, il personale di servizio, diciamo, sono le uniche due persone autorizzate a non avere il fisico, a non essere sanati dal fisico, perché diciamo hanno quel ruolo lì, sono sempre in divisa, mentre gli altri, anche quando hanno una camicia o un vestitino, alla prima occasione se lo tolgono, come ad esempio in una spettacolare sequenza già cult sul web, in cui la segretaria di The Lady fa delle audizioni, fa dei colloqui di lavoro per cercare un bodyguard e una assistente, e chiede le cose che tutti chiederebbero se cercassi una segretaria, un bodyguard o un assistente: di togliersi la camicia o di cantare, o se sanno fare qualche passo di danza. Cioè un provino oppure una richiesta di lavoro, è difficile capirlo, ma questo produce, diciamo, grandi perle di dialogo. Per esempio, cito una delle mie preferite: a un certo punto la segretaria chiede a questa ragazza lei in cosa eccelle, la risposta è: io sono fidanzata e il mio fidanzato è molto geloso. Non vedevo l'ora di vederti, come sei bella, per te. Grazie. Ma solo questo? A te non serve altro, indossalo. Ora? Tu mi fai sangue. Amore corporeo a prima vista. Tentazione estrema spericolata. Sei una figa stratosferica, un pezzo da esporre al museo del Louvre. Tu un estalone puro sangue, un bastardo su misura. Sei un trofeo. Togliti la maglietta, così ti giudico. Ok, per questa sera mi sta bene. Però non ci sarà un'altra volta. Le conosco, le donne come te. Ogni volta che vorrò sarai mia. Io sono capricciosa. Hai puntato troppo in alto. La sfida è aperta. Ecco, cerchiamo di capire quale alchimia ha determinato la nascita di questa serie. Questi qua sono i tronisti che non hanno sfondato, che hanno passato tutte le possibili ordalie delle isole dei famosi, dei passaggi, delle discoteche, delle ballerie di paese, delle comparsate compleanni del personaggio di rilievo, e oggi in questo posto hanno una sorta di loro paradiso immaginario. Questo è il dopo la vita, il Valhalla dei tronisti e delle ragazze di Maria De Filippi. Ma io credo che semplicemente Lori del Santo e gli altri abbiano colto lo spirito del tempo, che è: se non te lo fanno fare in televisione, fallo sul web, perché lì c'è spazio per la creatività, non ci sono tutti quei paletti. Il che a volte è vero, perché ci sono delle cose che in televisione non vanno, perché la televisione non coglie dei linguaggi innovativi e quindi vanno sul web. Probabilmente, a parte che a volte, se una cosa non va in televisione, forse c'è un motivo, e a volte c'è un linguaggio troppo innovativo. Voi avete sentito questi dialoghi sono oltre su questi dialoghi a cui ci sono, per cui ci sono pagine Facebook dedicate, cioè vi consiglio. E questo magari era l'effetto che non immaginavano, o sono talmente avanti che nemmeno noi riusciamo a capirlo, che hanno capito che bisogna produrre degli oggetti orribili che diventino culto nella rete, che dove il gusto del paradossale crea dei meme, crea dei cult, crea delle cose assurde. Da questo punto di vista Lori del Santo ha sfondato, ci sono pagine e pagine dedicate ai dialoghi, nemmeno ai personaggi o alla serie, proprio che riportano solo le frasi come quelle che avete sentito, tentazione erotica spericulata, o The Lady, cosa se il mio è Stallone, se il mio è Stallone, oppure The Lady, che cos'è per te l'amore, frammenti di cose diverse, ma ora devo andare, ciao. Perché insomma poi i dialoghi sono anche un po' affrettati, perché i tempi del web sono quelli che sono, e i commenti che ci sono sulla pagina web di Lori del Santo si richiamano a David Lynch, i fratelli Coen, ci sono diciamo quasi tesine da Adams nei commenti di Lori del Santo. Da questo punto di vista Lori ce l'ha fatta, questa sua serie sul web è un successo, ci sono episodi che hanno 300.000 visualizzazioni. Sarà pronta la televisione italiana ad accettare un linguaggio così complesso? Non lo so, ne dubito, però noi tifiamo tutti per Lori del Santo indubbiamente, perché abbiamo letto per anni, abbiamo sentito gente che diceva questa serie TV racconta il paese. Ecco, questa serie TV racconta di sicuro il paese. Ma ci fermiamo un istante con Achille Correa, riprendiamo dopo le informazioni del traffico, perché ci sarà un'altra sorpresa, un altro personaggio assolutamente improbabile nelle dinamiche avveniristiche della produzione artistica dentro il web, che riappare improvvisamente e crea un cortocircuito fantastico. Melog, cronache meridiane. Devi sparare a lui, io sono Luigi, che cretino. Lo vedrebbe chiunque che Luigi sono io, no? Spara a lui, io sono il vero Luigi. Sono io, andiamo al circolo. Signor Magali, per favore, basta un... Luca, non fare il cretino, sono io Luigi, sono io il vero Luigi. Sono Luigi, fa la canna, sì, e vai. Ma questa è la mia battuta, lo vedi che sta cercando di prendere la mia identità? È lui quello che quindi... Io sfido qualsiasi studioso del futuro, dei nuovi media, delle tecniche espressive che verranno, di aver previsto semplicemente un anno fa, due anni fa, che Magalli sarebbe diventato l'eroe di una sitcom girata per il web come The Pills. Achille Correa. Beh, Magalli è veramente il segno che il web e le webserie sono pronti a frullare qualsiasi contenuto tradizionale. Quella che abbiamo ascoltato è la più recente puntata di The Pills, che è proprio una delle webserie italiane di maggior successo ed è proprio la tipologia di webserie di cui si parla quando se ne parla più genericamente. Gruppo di ragazzi, cose, episodi, puntati girati principalmente nel loro appartamento, nella loro convivenza. Di solito si parla del bagno troppo sporco, dell'uscita del sabato sera, che arriva ad attirare l'attenzione dei media tradizionali. Loro sono già passati su Italia 1, hanno realizzato un fan movie su un Dylan Dog, e riesce a inserire in questo episodio Giancarlo Magalli, che prende il posto in maniera surreale però efficacissima di uno dei protagonisti di The Pills, addirittura utilizzando i loro tormentoni, le loro battute. Magalli che dice a zi fa una canna, diciamo, era abbastanza inimmaginabile anche penso dai più profondi. Ecco, a questo punto ci domandiamo, è più avanti Magalli che si è prestato a questa sorta di ritorno al futuro, o loro hanno capito che in realtà questi simboli del passato devono essere riattualizzati, riletti, ricontaminati? E Magalli improvvisamente, che era completamente dimenticato, conduce un programma per massaie all'ora di pranzo con i giochini, che è sempre uguale degli ultimi 30 anni, improvvisamente diventa un cult. Magalli effettivamente andrebbe studiato da questo punto di vista, perché a volte succedono cose che nemmeno io mi spiego. Tipo qualche tempo fa su Twitter è partito il giochino sostituisci con Magalli, inserisci la parola Magalli nei proverbi e nei titoli nel film, ed erano tutti dei 14-16 anni, che forse diciamo quando Magalli è iniziato nemmeno i loro genitori erano ancora in auge, e spuntavano tutti i giochi di parole, tanto va Magalli all'ardo, che tanto diciamo tutte una serie di giochi di parole di grasse risate tra 14-16 anni, 18-20 anni su Giancarlo Magalli. Magalli probabilmente gliel'hanno detto, l'ha capito, capito, l'è venuto a sapere e ha capito che potrebbe avere l'ha cavalcato una terza vita, forse una quarta vita, come diciamo icona del web di una generazione a lui completamente, diciamo, probabilmente sconosciuta. Qual è il problema del bagno? Te lo dico io qual è il problema del bagno. Io ieri ci ho messo 2 ore per pulire il bagno, 2 ore, e stamattina era uno squat come tutte le altre volte. Vabbè, Luigi, cioè, lo sai che comunque siamo tanti, il bagno si usa. Ma regà, però Luigi c'ha ragione, obiettivamente se volete fare la sangria dentro al bidet la potete fare. Va bene tutto, però poi levate dei pezzetti di frutta che è veramente, cioè, sgradevole, capito? Che poi io dico, ma te, cioè, non è possibile che ogni volta che vai al bagno fai dei pollock dei feci? Quello è uno spazzolone, non un pennello. Però effettivamente c'ha ragione, sei disgustoso, Matteo, tu sei disgustoso. Ecco, Achille Corea, vediamo di cogliere... Tu fai anche lo sceneggiatore, ti occupi di questa materia, di cogliere quelli che sono gli elementi simbolici che portano al successo tra i ragazzi di questa serie. Magari abbiamo visto, è la trovata finale, è l'ultima deriva, ma loro sono occupati di tutto, hanno anche fatto un giorno una puntata sulla disabilità, uno si innamora di una ragazza, c'ha avuto soltanto una notte di fuoco, la vuole rivedere, lei gli dice no, guarda, è stata una botta e via. La ragazza è una ragazza down. Questo è diventato un film portato come esempio di una possibile informazione sociale, l'ho visto in un convegno specializzato, quindi hanno 1000 sfaccettature. Poi parlano dello stato di manutenzione della loro tazza. Beh, loro diciamo sicuramente rappresentano diciamo il lato veramente diciamo web rispetto all'esperimento, per quanto altamente artistico, di Lori del Santo. Loro fanno quello che in televisione ancora, noi diciamo ancora perché siamo speranzosi, non si può fare. Riescono a raccontare una generazione, riescono ad usare temi troppo forti al momento. C'è una puntata che è, diciamo, un po' quasi una parodia di Black Mirror, di una serie inglese, in cui uno di loro, per affrancarsi da un'accusa di omofobia, deve avere un rapporto omosessuale in diretta video trasmessa in streaming. Fanno quelle cose che, diciamo, per cui la televisione ancora non è pronta. Io non so se lo sarà, però loro ci stanno provando, qualche passaggio televisivo ce lo stanno avendo. Prendiamo le piccole tribù di questa Roma anni 90, noi, gli alternativi, eccoci qui che mettiamo dei dischi a una festa alloggiata e poi in agguato i pariolini. I pariolini, fichetti di destra, che non gradiscono la musica perché loro vogliono la techno. Questa è l'operazione opposta. Questo è lo stesso metodo di racconto, perché è sempre una web serie, però racconta un'epoca che non aveva gli strumenti per essere raccontata in questa maniera. È i ragazzi degli anni 90, la web serie in 15 puntate del Corriere.it, di cui abbiamo già parlato all'esordio, è già la sua seconda edizione, e racconta la storia di alcuni ragazzi degli anni 90, il decennio meno raccontato dal punto di vista iconografico. Cominciavano a esserci le prime telecamere in VHS, ma c'erano molto pochi, c'erano soltanto i figli dei ricchi, non c'era l'idea ancora di immortalare, anzi c'era l'idea di nascondersi, perché si era tutti clandestini, si era tutti in qualche maniera in situazioni che non bisognava mai immortalare o rendere eterne. Abbiamo al telefono Enrico Buonanno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e grazie della rinnovata ospitalità. Allora, Enrico Buonanno è scrittore, autore della webserie appunto Ragazzi degli anni 90, che è arrivata alla seconda stagione. Come vedi questo vostro esperimento, che è un esperimento, ne parliamo, come qualcosa di inedito, raccontare gli anni 90 che ancora erano il decennio di buco? Ci siete riusciti secondo voi? Avete riportato alla luce elementi che erano dimenticati di quel decennio? E alla luce di quest'altra sperimentazione che sta andando avanti, ti ho spiegato che stanno ormai al triplo salto mortale, riappare il presidente Magalli, che è un personaggio anni 90, ma già si è cambiato, è già diventato il personaggio surreale di The Pills. Ma io, questa è un'operazione particolare, nel senso che si è svolta, proprio è stata sviluppata in due momenti e due epoche completamente differenti. Ho notato come, cioè, io naturalmente avevo girato questo documentario sull'epoca che stavo vivendo all'epoca, al momento, senza immaginare, non dico le webserie, ma il web. Non esisteva proprio il web. Non era ai suoi albori, certo, non era nella quotidianità, e ho scoperto come alla fine lo strumento webserie è riuscito a realizzare il sogno un po' campato in aria che avevo all'epoca, perché in fondo io giravo queste immagini degli anni 90 in diretta con un po' in maniera sprovveduta, come sempre si fanno le cose da adolescente, dicendo ma chissà, un giorno ne farò un film. Ecco che invece ho capito che era esattamente una webserie che avevo in mente. Perché? Perché voleva essere qualcosa di condivisione di una quotidianità, di condivisione di immagini che altrimenti sarebbero andate. Perché non ci rendiamo conto quanto pochi elementi iconografici c'erano di quell'epoca. Erano veramente pochi rispetto a quelli che oggi abbiamo, 10.000 immagini nel nostro telefonino. Allora c'era quasi nulla. Non solo era difficile riprendere, ma era difficile, io insisto sull'atto di condivisione, che secondo me è stato un po' la chiave del successo che ha avuto la prima stagione, adesso la prima e seconda, spero anche puntata della nuova stagione. È stato il fatto che un'intera comunità di 30 e 40 anni che non avevano mai rivisto quelle immagini lì, l'hanno potute rivedere per la prima volta dopo 15 o 20 anni, ecco, certi ambienti, certi colori, e quindi poi ecco, cosa riportare portato alla mente. Io ho condiviso i miei anni 90 perché riprendevo la mia quotidianità, come sempre un'epoca non è mai riducibile a un ambiente, una scuola, però è stato lo sprone per far sì che tanta altra gente poi condividesse i propri ricordi, quindi in questo senso mi sembra che abbia abbastanza funzionato, ecco, l'operazione. Grazie Enrico Buonanno, grazie Achille Corea. La domanda che mi faccio, che rimane senza risposta, è come sarà ricordato Magalli tra due generazioni, il Magalli della televisione, il Magalli delle massaie o il Magalli delle webserie? Questa domanda naturalmente non ha risposta. Alla prossima!